botto, dopo aver aperto il frigo, qui non c'è più niente, tocca fare la spesa, meglio che mi sbrigo. Affettati, sughi pronti, su gelati, uova, burro, pasta, un po' di formaggi vari, metto tutto nella lista, ma io non mi sono mai gettato dentro ad un supermercato, in verità mi viene da considerare seriamente chi me lo fa fama, la necessità mi dà coraggio, quindi... Spaesato, quando arrivo nel supermercato, vago senza meta da tutte le parti, penso tra reparti, sulle parti, sulle parti. Proprio una vecchia che si muove silenziosa, scivolando verso ogni offerta vantaggiosa. Mi sento umiliato, ingaggio un duello, prendo cose a caso, butto tutto nel carrello. Provo alla cassa, mi danno una busta, metto dentro ma la vecchia si appressa, ne riempie quattro, nulla poi se ne va. Io non sto neanche a metà, e in quel momento è inutile che finga, desidero essere una casalinga. In quel momento è inutile che finga, desidero essere una casalinga. Salotto, il letto non viene mai rifatto, schizzi d'urina sul gabinetto, sfondi i denti, friccio nel lavandino, asciugamani oramai muffiti, ferro da stiro, dammi il potere, niente più acari sulle lenzuola, con una briciola mi potrà sfuggire se sarò ogni giorno più pignola, ferro da stiro, dammi il potere, niente più acari sulle lenzuola, con una briciola.